Focus Economia con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. Siamo a martedì, siamo il 5 o il 6 agosto? Adesso mi sta venendo il dubbio, è il 5 agosto oggi. Stavo guardando i tecnici che naturalmente incuriositi controllavano il mio punto interrogativo in testa. 5 agosto è giornata anche oggi molto vivace dal punto di vista economico-finanziario. Segnaliamo immediatamente la notizia che per la verità ha già un buon spazio su tutti i principali siti di informazione. Naturalmente mi riferisco ad una notizia del settore economico, perché abbiamo anche chiaramente ancora molto vivace il dibattito sulla riforma elettorale, non solo. Oggi abbiamo questo, chiamiamolo così, piccolo scontro a distanza fra la Confcommercio e il Premier Matteo Renzi, perché questa mattina Confcommercio ha diffuso i suoi dati relativi all'andamento del consumo nel nostro paese. E cosa ha detto l'associazione guidata da Sangalli? Che il bonus IRPEF da 80 euro praticamente ha avuto effetti nulli sui consumi degli italiani. Parla di un bonus appunto quasi invisibile. Renzi naturalmente ha contestato questa presa di posizione e dice che la ripresa è come l'estate, prima o poi arriverà, e quindi ha voluto un po' smorzare anche i toni di queste osservazioni della principale organizzazione del commercio italiana. Ne parleremo nella prima parte del nostro programma anche di questo, con il commento di un economista. Fra un po' sentiremo Francesco Daveri dell'Università di Parma, editorialista del Corriere della Sera, con il quale però commenteremo anche il tema che lui stesso ha commentato questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera, cioè la notizia che abbiamo dato anche ieri in diretta a Focus Economia: l'investimento della banca centrale cinese in Telecom Italia, ma non solo, anche in altre società importanti quotate in borsa in Italia, e mi riferisco in particolar modo a Fiat e Prysmian. Questo interesse dei cinesi, che cosa cela, che cosa significa, che cosa vuol dire questo fermento? Perché è molto interessante osservare il distacco che c'è ancora una volta fra la finanza e l'economia reale. Domani verrà diffuso dall'Istat il dato sul PIL italiano, e ancora una volta appunto dovremo rassegnarci a commentare un'altra statistica che conferma la stagnazione del nostro paese, ma dall'altra parte abbiamo questi investitori internazionali che invece su qualche azienda italiana punta, e cercheremo di capire per quale motivo, cosa si cela anche di tanto interessante dietro a società come queste che conosciamo molto bene, anche se poi soprattutto di Fiat parliamo sempre in termini un po' polemici per tutte le attività manageriali appunto di Sergio Marchionne. A parte questo, di che cos'altro parleremo oggi a proposito di Telecom Italia? Ne parleremo appunto nel corso della trasmissione, non tanto per la questione dell'investimento appunto dei cinesi, ma perché oggi arrivano delle notizie che riguardano Telefonica. Gli spagnoli di Telefonica sarebbero pronti ad uscire appunto da Telecom Italia. Sul piatto mettono l'8,3% del capitale che potrebbe andare al gruppo francese Vivendi. Oggi c'è stato tutto un rimescolamento azionario che ha avuto un po' come epicentro il gruppo GVT, il Global Village Telecom, che è il gruppo appunto del Sud America. E vi spiegheremo un po' bene questa vicenda, che è piuttosto complicata, ma che ci porta appunto a commentare ancora una volta come al centro della cronaca finanziaria ci siano le sorti di Telecom e naturalmente il suo, appunto ribadisco, riassetto azionario. Per quello che riguarda poi la giornata complessiva di borsa, qua brutte notizie, perché Milano proprio ha una batosta sul finale, meno 1,7%, al contrario di come stanno andando le altre piazze europee, che sono tutte positive, anche se hanno rallentato il passo anche queste, in mattinata andavano meglio. Su Milano si concentrano le attenzioni degli investitori non solo sul caso di Telecom Italia, che è tuttavia il peggior titolo e perde oltre 5 punti, ma di nuovo tornano le vendite sui titoli del settore bancario e poi su alcune società che oggi hanno rassegnato la trimestrale, che evidentemente ai operatori finanziari non sono piaciute particolarmente. Ci sono stati dati di Campari, ma non solo. Nel frattempo noto anche che l'euro scivola sul dollaro e adesso viaggia a 1,3368, quando nelle ultime ore aveva recuperato 1,34. In questo momento è negativa anche Wall Street. Questo un po' in sintesi il gruppo degli argomenti che approfondiremo questa sera a Focus Economia, ma naturalmente come tutte le sere partiamo con le notizie in breve. naturalmente subito gli ascoltatori si sono affrettati a prendermi in giro perché non mi ricordavo la giornata. Detto questo, andiamo invece ad altre cifre più importanti di quelle del numero del giorno di agosto. L'oro oggi a 1.284 dollari l'oncia, leggermente giù sui mercati internazionali. Il petrolio, anche il petrolio è sceso a 98 dollari al barile. Il presidente americano Barack Obama annuncia oggi che un gruppo di società statunitensi si sono impegnate ad investire 14 miliardi di dollari in Africa. Lo ha riferito un responsabile americano nel secondo giorno del vertice USA-Africa. Gli investimenti saranno nei settori edile, energia pulita, servizi bancari e tecnologie. Rinfreschiamoci la memoria un po' sulle ultime notizie per quello che riguarda il nuovo, tra virgolette, crack finanziario dell'Argentina. Il magistrato di New York che si sta occupando di questo scontro giudiziario fra l'Argentina e gli hedge fund per il pagamento degli interessi sui tango bond non ristrutturati, cioè quelli che non sono stati al centro delle ristrutturazioni del debito argentino del 2005 e del 2010, ecco, il magistrato americano Griesa ha autorizzato la banca d'affari JP Morgan Chase ad effettuare, ma per un'unica volta, un pagamento di interessi su questi titoli argentini, appunto in dollari, relativi a questi due swap, come si dice in gergo finanziario, a queste due ristrutturazioni degli anni passati. Questa autorizzazione ad hoc fa seguito a quelle similari che sono state decise il 28 luglio per pagamenti da effettuare attraverso Citibank e lo scorso 1 agosto per pagamenti ai detentori europei di bond strutturati. Queste decisioni del giudice Thomas Griesa non si riferiscono però ai 539 milioni di dollari che sono stati depositati a fine giugno da Buenos Aires sui conti della Bank of New York Mellon presso la Banca Centrale Argentina, che restano appunto bloccati. È stato questo pagamento non effettuato appunto ai detentori di obbligazioni che ha posto il paese, come vi ricorderete, ne abbiamo parlato molto, in situazione di default selettivo, default tecnico, chiamiamolo come vogliamo. Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, domani incontra il numero uno della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, a Lussemburgo. Lo ha riferito un funzionario della zona euro. Il vertice si svolge alla vigilia della nuova riunione di politica monetaria dei governatori della Banca Centrale Europea a Francoforte, giovedì. La BCE, secondo le attese, manterrà i tassi di interesse invariati. Weidmann, presidente invece della Bundesbank, che prenderà parte al Consiglio dei governatori, ha chiesto più volte ai governi dell'Unione di premere sull'acceleratore delle riforme e rispettare i vincoli di bilancio, sottolineando che a questo punto la politica monetaria ha fatto la sua parte. Ricordiamo che il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi sta promuovendo da tempo uno sforzo per spostare il focus europeo dall'austerità alla crescita. Oggi, a margine di un'audizione in Commissione Finanze alla Camera sul decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, anzi non a margine, proprio nel corso di questa audizione, la neo direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha detto che l'innalzamento a 15.000 euro della soglia entro cui chiedere rimborsi IVA senza adempimenti permetterà di eliminare in gran parte l'arretrato. E con l'entrata in vigore, ha ancora detto, del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, saranno liberati e quindi smobilitati, insomma, 22.000 rimborsi IVA che potranno essere erogati senza documentazioni o controlli, e quindi questa speriamo sia una buona notizia per tutti i contribuenti interessati a questi rimborsi IVA. Si è concluso proprio da poco al Ministero dell'Economia l'incontro sul dossier Alitalia, a cui hanno partecipato gli azionisti della compagnia, fra cui Poste Italiane, rappresentata dall'amministratore delegato Francesco Caio, oltre che naturalmente rappresentanti dell'azienda. Due ore di riunione, i partecipanti hanno lasciato poi il tesoro senza rilasciare dichiarazioni, e a Fiumicino intanto si è concluso anche l'incontro fra aziende e sindacati sulla procedura di mobilità. Secondo quello che si è potuto apprendere, l'azienda si sarebbe presa più tempo ed è probabile una nuova convocazione venerdì. Nel frattempo è stato trovato anche un accordo fra i soci di Alitalia sulla ripartizione delle quote nella partecipazione all'aumento di capitale necessario per il gruppo da 300 milioni di euro. L'accordo sarebbe stato raggiunto proprio nel corso di questa riunione al Tesoro. Poi nel primo pomeriggio James Hogan, CEO, l'amministratore delegato di Etihad, ha incontrato il presidente di Alitalia, Colanin, e l'amministratore delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci. Non erano presenti a questo incontro né Caio, l'amministratore delegato di Poste, né i rappresentanti delle banche azioniste di Alitalia. Anche in questo caso Hogan non ha rilasciato nessuna dichiarazione al termine di questi incontri, uguale esito dopo l'incontro precedente in tarda mattinata al Ministero dell'Economia. E intanto Poste avrebbe alzato il suo investimento in Alitalia da 70 a 75 milioni, e quindi prevedibile che nei prossimi giorni venga convocato un nuovo consiglio di amministrazione della società. Ne parleremo più tardi nella trasmissione per cercare di capire cosa significa tutto questo movimento, ma di fatto, almeno le agenzie oggi lo interpretavano in questo modo, il gruppo spagnolo Telefonica avrebbe messo proprio sotto scacco Telecom Italia lanciando un'offerta a sorpresa su GVT, la società di telefonia fissa brasiliana che è controllata dalla francese Vivendi. Questa mossa è stata annunciata, e per qualcuno si tratta proprio di ironia della sorte, proprio mentre si erano infittiti gli incontri fra i vertici di Telecom e quelli di GVT e Vivendi per studiare un'integrazione oltreoceano fra la compagnia di telefonia mobile del gruppo italiano TIM Brasil e appunto la società brasiliana. Anche la stampa brasiliana, l'opinione pubblica, insomma, sembra che vedessero proprio di buon occhio questo asse che ovviamente era invece non proprio visto con grande favore dagli spagnoli di Telefonica, proprietaria di Vivo, il primo operatore nel mobile in Brasile. L'offerta di Telefonica a Vivendi per la brasiliana GVT è un atto ostile contro il progettato merger GVT TIM Brasil fatto da chi è ancora il primo azionista di Telecom. Questo è un giudizio che è stato dato, poi cercheremo di capirne anche la portata, dal presidente della Cassa Depositi e Prestiti Franco Bassanini, che lo ha affidato peraltro ad un tweet. Questione nazionale? Si chiede poi Bassanini, girando la domanda a chi sul social network lo segue. Grazie ad un buon lavoro di squadra e senza fare troppi proclami, stiamo affrontando un passo alla volta i problemi di Pompei, così il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, nel giorno in cui 30 nuovi addetti hanno preso servizio presso l'area archeologica di Pompei in attività di supporto alla fruizione di domus ed edifici fino ad ora chiusi a causa proprio dell'insufficiente numero di custodi. Grazie a questo nuovo personale, ha aggiunto il ministro in una nota, si è ampliata e si è arricchita l'offerta di visita del prestigioso sito di Pompei. E il turismo è molto importante per l'economia italiana. Adesso di economia italiana andiamo a parlare. Parliamo di economia italiana, intanto per commentare un po' il tema che oggi è stato al centro anche di un certo interesse da parte dei vari siti di informazione. Allora, intanto che cosa è successo? Che sappiamo benissimo come stanno andando i consumi nel nostro paese, ristagnano completamente, si è cercato di rilanciarli anche con il bonus da 80 euro in busta paga, partito a maggio, iniziativa del governo, ma è già tempo in cui si possono fare dei bilanci sul fatto che questo bonus sia servito o meno, oltre che per tamponare qualche buco nelle famiglie, naturalmente anche per effettivamente comprarsi qualcosa e rilanciare i consumi. E oggi su questo è intervenuta la Confcommercio, perché Confcommercio ha diffuso appunto i suoi indicatori sull'andamento dei consumi nel nostro paese. In giugno questi consumi sono cresciuti dello 0,4% rispetto ad un anno fa e appena dello 0,1% rispetto al mese precedente. Questo è proprio l'indicatore dei consumi di Confcommercio, secondo cui la crescita è troppo poco rispetto alle attese. Ci sono segnali positivi, ma sono ancora straordinariamente deboli ed insufficienti per affermare che la domanda delle famiglie sia giunta ad un incoraggiante punto di svolta. Allora, sull'indicatore diffuso oggi abbiamo sentito Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, intervistato da Valeria De Rosa. ci aspettavamo un effetto bonus in linea, diciamo, con le attese del governo più forte, invece è stato debolissimo, ma tutto sommato non si può neppure trascurare che qualche cosa si sta muovendo. L'abbiamo visto per esempio sui dati dell'occupazione negli ultimi due mesi, cioè maggio e giugno, l'abbiamo visto appunto dall'ICC, ci sono dei consumi che sono in moderata crescita, anche le auto immatricolate in luglio sono in crescita. Diciamo che si poteva vedere qualcosa in più, però bisogna, come dire, accontentarsi. Noi comunque riteniamo che questo bonus, per essere veramente utile dal punto di vista della crescita economica, debba essere percepito come duraturo, quindi non episodico, ed esteso anche alla platea degli altri contribuenti, cioè dei lavoratori indipendenti. Beh, l'intenzione del governo è di rendere effettivamente questa misura strutturale, si è detto tante volte, Renzi lo ha detto, e in realtà poi l'obiettivo sarebbe anche quello di allargare la platea dei destinatari, ma qua abbiamo un po' più di difficoltà perché, come sapete bene, appunto le risorse per fare questa operazione il governo le vorrebbe prendere dai tagli alla spesa, quindi era tutta l'operazione di spending review di Cottarelli, ma là in questi giorni si è alimentata una polemica piuttosto importante. Ma in ogni caso, su questi 80 euro ancora una volta Renzi ha voluto rispondere alle osservazioni di Confcommercio. Sentiamolo. I dati sono dati alcuni positivi, altri negativi. Questo di Confcommercio è un dato che passa da, mi pare, meno 1,2 a più 0,6. Altri sono peggiori, per cui dipende dai punti di vista. I dati, sia quelli che hanno il segno positivo, come questo dei consumi, sia quelli che hanno segno negativo, sono dati che quello che sono, cioè ancora non siamo fuori dalla situazione di difficoltà, ancora c'è molto da fare. Questo impone a tutti noi di essere ancora più decisi, ancora più forti nel percorso di riforme e di cambiamenti che dobbiamo fare del lavoro, della giustizia, del fisco, del sistema della pubblica amministrazione. Però a quelli che dicono che gli 80 euro non sono serviti a niente, io dico che ci sono 11 milioni di italiani che la pensano in modo diverso, perché sono quelli che hanno ricevuto un piccolo modo per andare avanti con più determinazione. Dopodiché cercheremo di fare di più e meglio, non c'è dubbio. Se era una cosa facile non eravamo qui, quindi l'impresa non è semplice. Dopodiché però voglio anche dire, gli italiani ci sono da fare le vacanze, chi le può fare le faccia con grande tranquillità. La situazione dell'Italia ancora non è quella che noi aspettavamo, ma stiamo andando nella direzione, un po' come l'estate, non è che è arrivata quando volevamo, arriva un po' in ritardo, arriva non bella come ci aspettavamo, ma arriva. E su questi commenti del Premier Renzi io volevo sentire cosa ne pensa il professor Francesco Daveri, economista, all'università, docente all'Università di Parma, editorialista del Corriere della Sera, a cui oggi è stato affidato un commento su questi ingressi della Banca Centrale Cinese in importanti società italiane. Ma le chiedo in realtà subito, professor Daveri, un commento sul tema dei consumi italiani. 80 euro non servono a niente, dice Renzi. Io penso che invece per 11 milioni di italiani appunto le cose non ne stiano esattamente così e la pensano in modo diverso. La ripresa sarà veramente... Le piace questo parallelo che ha usato Renzi con l'estate italiana di quest'anno, Daveri? Arriva, non è esattamente un'estate come quella che ci aspettavamo. La ripresa ha le stesse caratteristiche, a suo avviso? Ma spero di non... insomma, la meteorologia non è il mio campo, comunque, e penso nemmeno quello del Presidente del Consiglio, però il brutto dell'estate è che arriva magari in ritardo, poi però se ne va via, perché poi ahimè viene l'autunno, quindi sicuramente sono sicuro che poi non è che si voglia estendere troppo questo parallelo meteorologico, insomma, quindi capisco il senso della cosa, però insomma sarei più sulle cose così, diciamo, solide, che sono una parte della la frase che ha detto Renzi, penso che sia condivisibile, cioè gli 80 euro non era detto che andassero a finire subito tutti immediatamente in consumi, e quindi questo è quello che si vede nei dati di Confcommercio. Confcommercio ha molta fretta, vuole vedere questi risultati, come anche tutti vorremmo vedere questi risultati, però dobbiamo anche ricordarci che veniamo da due anni consecutivi in cui i consumi non sono scesi solamente in termini reali, cioè il numero delle patate, delle carote e dei computer che le famiglie italiane hanno comprato, ma sono scesi anche a prezzi correnti, cioè in euro, nonostante quel po' di inflazione che c'è stato, comunque la spesa è stata più bassa nel 2013 rispetto al 2012 e nel 2012 rispetto al 2011. Quindi dobbiamo invertire questa tendenza e ci vorrà del tempo. Certo. Quello che le famiglie italiane stanno facendo, secondo me, è quello di vedersi arrivare, almeno quelli che hanno ricevuto gli 80 euro, parliamo di questi, con una platea appunto ancora limitata, ma sia pure significativa, perché 10 milioni e passa di persone, certamente non sono pochi. Devo dire... Deve arrivare a 80 euro tutti i mesi e comincia a dire ho da pagare le rate del mutuo che facevo un po' fatica a pagare prima, adesso riesco magari a pagarle un po' meglio, comincio a pensare di comprare qualche cosa in più nello shopping di tutte le settimane quando uno va al supermercato, al negozio sotto casa, e magari comincio a mettere da parte qualche soldo perché voglio comprarmi invece, non lo so, un nuovo televisore piuttosto che un nuovo computer. Ecco, queste qui sono il modo in cui le famiglie italiane stanno ragionando, e credo che quindi non ci possa aspettare tutto e subito un effetto da giugno, bisognerà aspettare un po' di tempo per vedere, per dare una valutazione più equilibrata. E infatti ne abbiamo parlato anche molte volte, lo dicevo anche all'inizio, è assai probabile che molte famiglie abbiano, come dire, tamponato qualche piccola emergenza finanziaria della quotidianità, naturalmente della vita domestica, qualche bolletta rimasta indietro, magari ci sarà stato anche un cortocircuito di fiducia, no professor Daveri? Perché naturalmente con i chiari di luna che abbiamo visto negli ultimi anni è anche probabile che qualcuno se li sia tenuti un po' in tasca, li abbia tenuti lì magari sul conto corrente aspettando che si accumulassero in 3 o 4 mesi per capire cosa farne, magari qualche famiglia anche pronta a fare acquisti, a fare qualche piccolo investimento per il menage familiare, li ha tenuti lì proprio per, che ne so, eventualmente tamponare possibili emergenze. Secondo lei la questione fiducia quanto conta? No, conta sicuramente. Questo è l'altro aspetto invece, diciamo, di compiti ancora da svolgere per il governo, è quello di rendere permanente, come ha più volte, mi sembra che il primo ministro sia più volte impegnato in questo senso, a dire fin da subito gli 80 euro per quest'anno li abbiamo introdotti in questo modo, ovvero sia come un bonus, ma per il futuro gli italiani, quelli che l'hanno già ricevuto, possono contarci perché saranno ancora lì. È da discutere se poi sarà possibile estendere la platea dei beneficiari, insieme ad aver capito che invece per l'anno che viene non è una cosa su cui Renzi si sia impegnato, però la cosa importante da fare è rendere permanenti gli 80 euro al mese almeno per quelli che li hanno già ricevuti. Per una platea, certo, che è quella potenziale che spende peraltro, no? Infatti, sono quelli che hanno spesso appunto una propensione al consumo più alta, e quindi indubbiamente questo sarebbe il colpo atteso, colpo positivo atteso per i consumi. Quindi sarà una cosa che vedremo in autunno, in effetti. Esatto. In autunno verrà presentata la finanziaria, a quel punto si capirà se e quanto e come questi 80 euro saranno permanenti e su che platea si distribuirà. E quindi se qualcuno si aspetta di vedere anche qualche microscopico effetto dal dato sul PIL che verrà diffuso domani, sicuramente le sue aspettative andranno deluse. Il motivo però per cui abbiamo interpellato questa sera il professor Francesco Daveri è legato al commento che lui rilascia quest'oggi sulle Corriere della Sera su un tema di finanza, pretta finanza, di stretta finanza, perché qua ancora una volta dobbiamo osservare, come dire, proprio due mondi che viaggiano separati. Professor Daveri, l'economia che ancora soffre, soprattutto per quello che riguarda il paese, la finanza che invece racconta altro, racconta di società che sono appetibili soprattutto per i grandi investitori internazionali. Ieri in diretta avevamo dato la notizia dell'ingresso della Banca Popolare Cinese in Telecom Italia, che oggi perde il 5%, ma per altre ragioni, e poi appunto dalle rilevazioni Consob invece si apprende che la Banca Centrale Cinese è entrata anche in Prysmian, è entrata anche in Fiat, e insomma tutto questo movimento. Che cosa c'è? La dobbiamo guardare con soddisfazione, con preoccupazione, poi andrò anche ai singoli punti che lei tocca questa mattina nella sua analisi sul Corriere. Intanto ci dia un po' una visione generale della questione. Ma credo che come spesso succede con i capitali che vengono da fuori o che vanno via dall'Italia, non so, certe volte ci troviamo a discutere, a commentare le decisioni, non so, di grandi aziende che vanno a investire in altri paesi, altre volte ci troviamo a commentare, a discutere di invece investimenti o capitali che arrivano da fuori nel nostro paese. C'è sempre un duplice aspetto relativamente ai capitali che entrano e che escono dal paese. Da un lato il fatto che se riusciamo ad attirare capitali dall'estero, questo è una buona notizia, perché è segno che evidentemente l'Italia attrae. Non è scontato, soprattutto non era scontato se andiamo indietro 3 estati fa, quando eravamo sull'orlo del default. Beh, insomma, allora non era la cosa più ovvia da pensare che i cinesi potessero venire. No. pensare di mettere un'ingente quantità di denaro. Certo, l'ampliamento dello spread fotografava una fuga e anche molto importante di tutti gli investitori mondiali dal debito italiano, quindi altro che, no professore? Sicuramente, quindi questo siamo lontani per fortuna da quei tre anni, soprattutto per merito di tre anni fa, insomma, soprattutto per merito, diciamo, della Banca Centrale Europea, ma anche dell'argine che è stato posto, insomma, in un modo o nell'altro, anche con le politiche che sono state adottate in Italia per evitare questo default. Nello stesso tempo, però, l'arrivo dei capitali è, insomma, ci mette anche un po' una sfida, perché qui il punto è che i grandi capitali che arrivano sono quelli della Cina, sono di fondi sovrani, adesso addirittura della Banca Centrale Cinese o delle grandi banche cinesi, che muovono tanti capitali. In passato l'hanno fatto sistematicamente per andare a cercare risorse in Africa, in America Latina, o magari per mettere i soldi nei titoli pubblici americani e appunto anche europei in due anni, e adesso invece da un po' di tempo si stanno muovendo in modo un po' più ampio, completando però probabilmente una loro strategia di diversificazione del portafoglio, però vanno a cercare invece anche grandi aziende che operano sul mercato globale, che quindi non sono attive solo sul mercato interno italiano e che stanno facendo scommesse difficili sul futuro, come sta facendo Fiat Chrysler, come fa anche Prysmian, che sicuramente è un'azienda che opera certamente sui mercati globali, e come fa anche Telecom Italia, di cui abbiamo sentito poco fa, insomma, le luci e le ombre, insomma, ecco, dell'essere infatti presenti sul mercato. Molto spesso, professor Daveri, contestiamo un po' l'efficacia delle grandi missioni di sistema, ne sono state fatte tante negli ultimi anni su questi paesi che naturalmente hanno delle prospettive di sviluppo ancora enormi, per quanto Cina, India e altre aree del globo siano considerate ormai economie completamente emerse, in verità sul loro territorio hanno ancora delle potenzialità di espansione enorme, quindi costituiscono naturalmente anche per un'economia come quella dell'Italia degli sbocchi incredibili. Ma appunto, dicevo, qualche volta in passato abbiamo un po' contestato queste missioni di sistema che non hanno mai prodotto come dire, dei risultati molto efficaci. Non è facile per le aziende italiane chiaramente internazionalizzarsi, andare su questi mercati, potersi sviluppare in questo modo per portare i frutti anche in Italia. Secondo lei invece questa missione, perché lei la cita nel suo pezzo di questa mattina, l'ultima missione di Renzi ha dato i suoi frutti, cosa avrà detto di tanto straordinario rispetto a quello che avevano fatto i suoi predecessori in passato? Ma io veramente ho scritto sembra aver prodotto. Ah, ecco, è vero, ce l'ho sotto. In realtà, come si fa a dire, in effetti c'è da dire che comunque la visita di un primo ministro di un paese grande come l'Italia, in Cina e negli altri paesi dell'estremo oriente ha un peso che non viene sottovalutato dai nostri partner e concorrenti appunto dell'estremo oriente, quindi sicuramente è una cosa che va fatta tenuto conto della demografia prima di tutto, cioè di ciò che sta succedendo nel lato orientale del mondo, e sottovalutare l'importanza di quest'area considerandola semplicemente come dei concorrenti low cost che fanno scomparire i posti di lavoro nel nostro manifatturiero, oppure come delle terre dei mercati troppo lontani in cui le aziende italiane fanno fatica ad arrivare, soprattutto le piccole, per le quali è molto difficile entrare in mercati, esatto, come quello cinese, e certamente le piccole sono tuttora il nervo dell'economia italiana malgrado i duri colpi della crisi, però certamente non sono le piccole imprese che riescono ad andare facilmente così lontano, ma sono più che altro le grandi imprese. Quindi quello che è avvenuto è che i viaggi ufficiali, le missioni ufficiali hanno una loro funzione, non va eccessivamente enfatizzata, cioè è inutile suonare la fanfara quando queste cose avvengono, certamente si firmano dei contratti in occasione di queste missioni, però i contratti sono stati preparati da lavoro istruttorio di Sherpa nei mesi precedenti, quindi la cosa importante è il lavoro istruttorio precedente, certo, e la predisposizione di relazioni bilaterali tra i paesi che sono ineliminabili e anzi necessarie nel mondo globale. Mm-hmm. Quindi questo è l'aspetto importante delle cose. Poi quello che determina però se arrivano i capitali cinesi in Italia e se dobbiamo essere contenti di questo ha a che vedere con altre cose, cioè col fatto che noi possiamo offrire a questi capitali che arrivano un contesto in cui ci siano dei rendimenti che sono osservabili in anticipo, quanto grandi sono, quanto trasparenti, mm-hmm, quanto regolari o quanto volatili nel corso del tempo, quanto soggetti a decisioni discrezionali del governo, della magistratura. Certamente queste va vari aspetti sono tutti importanti nel determinare in un mondo globale dove va a finire poi il capitale. Mm-hmm. Noi siamo in concorrenza con gli altri, però certamente ce la giochiamo. Certo, allora professor Daveri, io la ringrazio molto per essere stato con noi. Il tema è anche che naturalmente se tu investi in una società quotata, chiaramente, come dire, puoi anche smontare il tuo investimento in termini abbastanza, in tempi abbastanza più o meno rapidi. Adesso non è che vendere il 3, il 4, il 5% di Fiat sia appunto questione immediata. Certo è che è una cosa molto diversa che un grande investitore internazionale venga magari con un bello stabilimento, un bel impianto produttivo in Italia e ci aiuti anche a rilanciare l'occupazione, ma questa insomma è un'altra storia della quale sicuramente discuteremo con lei in un'altra trasmissione. Grazie e buone vacanze. Grazie, anche voi. Grazie molte. Adesso andiamo a sentire un po' di pubblicità, poi torniamo naturalmente per raccontarvi di questa giornata di borsa che per Milano si chiude con un ribasso dell'1,62%. A tra poco. Ancora tanti commenti da parte vostra, soprattutto da chi contesta la questione degli 80 euro ancora dopo 3 mesi. Ne stiamo parlando, io invece dico che coloro che naturalmente hanno trovato un po' minimo giovamento, un minimo sollievo anche nel bilancio familiare da questa piccola cifra, naturalmente non scrive e se li tiene e alla fine dell'anno comunque, adesso qua siamo partiti a maggio, ma se andiamo a guardare poi quando partiranno strutturalmente dal gennaio dell'anno prossimo, in un anno saranno 800 più 960 euro in un anno. Io penso che quasi 1000 euro in più in un anno fanno un pochino di effetto. Poi magari mi sbaglierò, cosa devo dire? Mi spiace perché ancora contesta, si poteva fare di più, ma poteva anche non esserci nulla. Per cui, siccome non si può più dare nulla per scontato, date le vacche magre, l'epoca di vacche magre che stiamo vivendo, io dico che è già qualcosa, poi tutto naturalmente si può argomentare. Adesso invece andiamo alla batosta della giornata che arriva dalla borsa. Ciao Condina, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, questa mattina a Cuore Denaro ho intervistato un consulente finanziario che mi ha detto: sì, vabbè, però anche voi giornalisti amplificate, enfatizzate sempre quando le giornate sono negative e invece quando magari la borsa per 2-3 settimane, un mese cresce incessantemente, questo trend positivo non lo enfatizzate mai. E però oggi ci tocca raccontare di questa seduta così storta di Piazza Affari. C'è Omenone. Qualcosa bisogna pur scrivere, no? Certamente, e poi fare il giornalista è sempre meglio che lavorare se proprio vogliamo concluderla con i detti, ma il tema è che Milano oggi ha fatto -1,62%, tutte le altre piazze europee sono positive, senza niente di eccezionale, ma +0,4% se lo portano a casa. Cosa è successo a Milano? Diciamo che Milano è stata penalizzata sicuramente dalle performance negative di due titoli che pesano molto sul listino, che sono Telecom Italia e Fiat, che per ragioni diverse hanno perso parecchio insomma sul listino di borsa. Male anche le banche, che come sappiamo pesano anch'esse molto sul comparto azionario di Milano. Dobbiamo dire che Milano fino a metà seduta perdeva all'incirca lo 0,5-0,6%, poi l'apertura negativa di Wall Street ha contribuito ad accelerare le vendite sul listino, che è arrivato a perdere quasi il 2%, poi una chiusura -1,62%. Certo. Ti risparmio, sarai felice, Telecom Italia -4,62%, perché fra un po' con Antonella Olivieri del Sole 24 Ore approfondiamo questa giornata, le vicende recenti del gruppo di telecomunicazioni italiano, ma non solo perché è un gruppo internazionale. Vorrei capire un po' le storie sui bancari. Monte dei Paschi -4,54%, Popolare di Milano -3,83%, Banco Popolare -3,80%, Ubibanca -3,74%, e sono andati male anche gli altri. Oggi i conti mi pare che li abbia rassegnati Unicredit e anche qualche altro gruppo bancario italiano? Sì, guarda, principalmente Unicredit. Diciamo che non c'è una ragione precisa che spiega le vendite sul comparto bancario. In generale quando arrivano le vendite a Piazza Affari poi si concentrano soprattutto sulle banche. Come ti dicevo, nel primo pomeriggio sono arrivate soprattutto vendite su questo comparto. Unicredit oggi ha dato i conti che sono oltre le attese, nel primo semestre c'è un utile netto oltre il 1 miliardo di euro, infatti subito dopo la diffusione dei conti Unicredit guadagnava oltre 1,5 punti, poi appunto sono arrivate le vendite un po' su tutti i titoli e come vediamo alla fine chiude a -1%, molto meglio comunque, ricordavi tu, rispetto ad altri titoli. Tra l'altro volevo anche fare un commento magari un pochino acido, ma insomma Unicredit mi perdonerà, sono cresciuti moltissimo i mutui, più 146% in sei mesi. No, allora, i mutui, i crediti erogati complessivamente in sei mesi sono cresciuti del 52%. È chiaro che questa è una percentuale eccezionale. Ricordiamoci che 2-3 anni fa Unicredit, come altre banche italiane, avevano completamente abbassato la serranda del credito. Quindi se parti più o meno da zero, no, adesso c'è, non so se voglio, se è una polemica sterile questa, però la percentuale così importante è dovuta anche al punto di partenza. Comunque, insomma, non erogavano quasi più nulla, per cui questo è un po' il tema anche da tenere in considerazione. Allora, Fiat anche oggi, un po' alla pari di Telecom, ha una questione finanziaria un po' complessa da raccontare, per cui guarda, molto volentieri te la assegno. Ah sì, guarda, la questione è molto semplice. Qui c'è una fusione che è stata deliberata tra, come è noto, tra Fiat e Chrysler. Come in ogni fusione c'è la possibilità che degli azionisti esercitino il diritto di recesso, cioè decidano di non partecipare all'operazione e di essere sostanzialmente ripagati dei propri titoli. Il management di Fiat, la proprietà, ha fissato come... Ma sarebbe un disinvestimento, comunque uno molerebbe Fiat, deve uscire da Fiat, oppure si può fare il recesso senza uscire da Fiat? Come no, si fa? Insomma, consegna i propri titoli e riceve, diciamo, un rimborso che è stato già diciamo fissato dalla società. La società ha un prezzo determinato, la società ha anche deciso al massimo quanto vorrà diciamo spendere per questa per questo potenziale recesso, ha fissato un tetto a 500 milioni di euro. Allora, i rumor che si sono diffusi questa mattina a Piazza Affari erano che il numero di soci che potrebbe esercitare il diritto di recesso stia crescendo in questi giorni, che addirittura poi l'importo complessivo possa superare questi 500 milioni di euro fissati da Fiat. Che cosa succederebbe in questo caso? Succederebbe che diciamo tutto l'impianto dell'operazione dovrebbe ripassare dall'assemblea, quindi in sostanza potrebbe essere considerata a rischio tutta l'operazione di fusione con Chrysler. Ovviamente questa è un'eventualità che tutti vogliono evitare, però ciò non toglie che il titolo oggi abbia pagato pesantemente questa diciamo questa possibile scenario. C'è da dire che Fiat ha fatto una nota in cui ha smentito la possibilità che aumentino diciamo in misura così significativa i recessi. In effetti il titolo era arrivato a perdere il 7%, ha chiuso a meno 3,1%. Sicuramente però è un tema da tenere sott'occhio. Mi sono persa addirittura una scivolata di questa portata nel pomeriggio. Poi stavo anche pensando, magari loro hanno dato questo obiettivo dei 500 milioni di euro e poi magari, che ne so, se saranno un po' di più i recessi appunto esercitati, magari li accetteranno. Adesso dipenderà quanto questo limite verrà naturalmente superato. Altre notizie da raccontare? Il settore del lusso com'è andato? Perché qua pure è un settore che piace molto, ma non gode proprio di tantissimo favore da qualche tempo. Sì, infatti guardando le quotazioni dei titoli... Toz più 3, in realtà è il miglior titolo oggi. Sì, Toz era arrivato oltre 100 euro, mi ricordo, nei mesi scorsi. C'è stato un ridimensionamento negli ultimi mesi. Oggi invece in una seduta, devo dire, difficile per la borsa, gli operatori non solo in Italia ma anche in Europa si sono concentrati sui titoli del lusso. Infatti Toz è la migliore, fa più 3%, anche Moncler più 0,8%, ma anche Ferragamo e Luxottica sono comunque tra i titoli più positivi del listino. Bene, anche Tenaris che ha guadagnato un punto, Moncler più 0,8, Case New Holland Industrial più 0,5. Peraltro abbiamo parlato prima dei cinesi che sono entrati in Fiat, in Telecom e in Prysmian, e di Prysmian neanche così, abbiamo anche trascurato, in realtà oggi perde un punto. Salvatore Ferragamo più 0,46, Luxottica più 0,37, Finmeccanica attorno alla parità, che notizie ci sono? Qui ci sono le indiscrezioni oggi pubblicate dalla Repubblica sul piano di contenimento dei costi che è stato avviato dal nuovo amministratore delegato Mauro Moretti. Si dovrebbe arrivare insomma a un taglio di consulenze, collaborazioni, sostanzialmente alla cancellazione di tutte le controllate nel settore della difesa e dell'aerospazio, e addirittura una riduzione dei membri nei CDA delle controllate. Insomma, un taglio dei costi a 360 gradi che secondo gli analisti potrebbe portare anche di riflesso anche un possibile rialzo delle stime. Allora, abbiamo altri casi da segnalare, naturalmente con l'auspicio che domani possiamo registrare un po' di rimbalzino di Milano. Ma io sono Tech Value, che era la matricola che oggi è stata la migliore, ha fatto più 18%. È una società che si è quotata sul segmento AIM, LIME, sì, assolutamente, giusto? Sul mercato alternativo. Che è molto vivace da qualche mese a questa molto parte. Molto vivace, basse capitalizzazioni, quindi insomma numeri da prendere un po' con le pinze. Esatto, però, quindi questo più 10% può essere essere stato determinato anche da due soli contratti di acquisto, insomma, tanto sì, per diciamo, dare un po' le proporzioni ai nostri ascoltatori. Più 10 che meno 10, però. Ah sì, sì, certo. E il tema è sempre quello, sempre meglio fare i giornalisti che lavorare. Assolutamente. No? Grazie a Ceo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buona serata. Serata a tutti. Suggerimenti per chi è in viaggio, poi andiamo a Telecom. E ogni estate che si rispetti ci propone il suo bel caso finanziario da commentare. In questi giorni appunto il caso è Telecom Italia. E allora, meno 4,62% in borsa in questa giornata, qualunque cosa Telecom abbia da raccontare, sicuramente Antonella Olivieri non è piaciuta al mercato. Il Sole 24 Ore, buonasera. Direi. Allora, qui io prima ho cercato, un po' arrampicandomi sugli specchi, di spiegare questa giornata con le notizie che sono arrivate dal Brasile e poi dalla Spagna, hanno fatto una puntata in Francia per poi approdare naturalmente a Milano. Ci spieghi che cosa è successo esattamente, cosa vuol dire questo nuovo asse che si è formato tra appunto il Brasile e la Francia? Beh, diciamo, non c'è ancora quest'asse, ma certamente se quest'asse si riuscisse a consolidare per Telecom sarebbe un bel problema, e questo è il motivo per cui crolla in borsa. Esattamente. In pratica Telefonica ha rotto gli indugi, ha scelto di farsi i suoi interessi, e il suo interesse principale è rafforzarsi in America Latina, che è un mercato dove ancora si cresce avendo la strategia giusta, e ha deciso di puntare sulla convergenza banda larga, fibra, pay TV, e quindi è intervenuto a gamba tesa su GVT. GVT è una rete di fibra ottica che opera nel sud del paese e che è di proprietà di Vivendi. Vivendi aveva deciso qualche anno fa di metterla in vendita, e però chiedevano un prezzo veramente alto, tant'è che l'asta poi alla fine è andata deserta e se l'è tenuta. A questo punto al capo di Vivendi è arrivato Vincent Bolloré, che tra l'altro lo ricordiamo già in passato, insomma, ha già incrociato più volte la sua strada con Telecom. Beh, diciamo, in qualche modo la incrocia di nuovo, perché è uno dei primi azionisti di Mediobanca, che è ancora azionista di Telco, esattamente come Telefonica. Di comunque, Telco, che è la holding che controlla Telecom, e Telco, in Telco c'è Telefonica al 22%, è il principale socio. Mi Telefonica no, al 66%. Scusami, 66, cioè, tutta una proporzione un po' diversa. Ecco, il 22% è la quota che Telco ha in Telecom, che però si stanno sciogliendo, insomma, è tutto abbastanza una situazione complicata. Ritorniamo in America Latina. Che Telefonica ha deciso di presentare un'offerta a Vivendi per GVT. E, GVT era esattamente il candidato ideale a un'integrazione con Team Brasil, e per questo c'erano già stati in effetti contatti almeno da fine gennaio, perché le due società, quella di Vivendi e quella di Telecom Italia, si sarebbero integrate perfettamente sotto il profilo industriale e avrebbero rafforzato molto la posizione di Telecom Italia in Brasile. Nel contempo avrebbero soddisfatto la strategia che Bolloré, da poco arrivato alla presidenza di Vivendi, voleva seguire con GVT. Non ha intenzione di vendere, l'ha ribadito anche oggi. Certo che di fronte a un'offerta, diciamo che questi che finanzieri e le loro promesse da marinaio ci crediamo relativamente, ma ammettendo che sia vero, Io ci credo, però di fronte a un'offerta che c'è, quella di Telefonica, e che scade il 3 di settembre, e di fronte a un'offerta che ancora non si è vista da parte di Telecom, con la quale ci sono stati mesi e mesi di contatti, le strategie potrebbero anche cambiare. Se dovesse succedere che GVT va a Telefonica, il risultato sarebbe che per Team Brasil verrebbero meno le ragioni di contesa, nel senso che la vendita di Team Brasil era funzionale a cavare le castagne dal fuoco a Telefonica in Brasile, in quanto concorrente è messa sotto accusa dall'antitrust, della concorrenza locali. Esatto. Per il fatto che non solo controlla il primo operatore mobile del paese che è Vivo, ma indirettamente, secondo l'antitrust, controllava anche Team Brasil tramite Telco Telecom. Quindi con questa operazione Telefonica uscirebbe da Telecom e si sposterebbe su GVT, quindi non avrebbe più nessun problema di antitrust. Telecom resterebbe senza una possibilità di rafforzarsi, perché di fatto l'opportunità d'oro era l'integrazione con GVT, e dall'altra com'è possibile che Vivendi diventi un azionista importante di Telecom, perché poi appunto a cascata succederebbe anche questo. Sì, ma Vivendi che interesse ha nelle telecomunicazioni? Vivendi, ricordiamolo che fino a qualche tempo fa, esattamente fino a maggio, aveva una divisione di TLC che comprendeva Maroc Telecom, SFR, cioè l'operatore mobile francese, e GVT. E ha venduto Maroc Telecom, ha venduto SFR tenendosi una quota del 20% nell'entità combinata, e ha deciso invece di tenere GVT per seguire una politica da media company, cioè praticamente per sviluppare banda larga e contenuti, perché Vivendi è il suo core business, sono i contenuti. E quindi da un certo punto di vista l'offerta di Telefonica suona un attimino come ok, devo cambiare strategia, te la vendo, è vero che resterebbe con una quota, ma cosa se ne farebbe di una quota in Telecom, una quota in Telefonica Brasil, quando di suo ha deciso di cedere le partecipazioni che aveva nelle Telecom, che francamente caso complicato. Senti, oggi ha suscitato un po' di interesse, per me è stato anche un po' folcloristico questo commento rilasciato dal presidente della Cassa Depositi e Prestiti Franco Bassanini, che ha subito posto l'accento sul caso nazionale, ritorniamo al protezionismo, un po' come hanno fatto in Francia con altri casi recentemente. Ma secondo te c'è un fondamento per un commento di questo tipo? O comunque ormai viviamo in un mondo globale, inutile che stiamo a ricommentare questo, insomma. Poi anche le partite nelle telecomunicazioni si sono sempre un po' giocate sugli scacchieri internazionali, voglio dire, che senso ha parlare di un campione nazionale in questo campo? No, diciamo che sia una mossa ostile a Telecom è ovvio, perché tutti sapevano che Telecom stava così guardando il terreno, quella preda là, okay. Certo, e c'erano anche stati contatti per l'appunto, e del resto non si può pretendere, visto che è sancito ed è anche un obbligo con le autorità brasiliane che i due gruppi operino in concorrenza in Brasile, che Telefonica si ponga degli scrupoli nel seguire i propri interessi. Se sei in concorrenza, sei in concorrenza. Telefonica fa i suoi interessi, Telecom fa i suoi interessi, punto di domanda. Bene, un minuto di tempo prima dei nostri saluti. A questo punto, prossimi step di tutto questo? Cosa dobbiamo aspettarci? Allora, c'è un consiglio Telecom in corso, durerà per le lunghe, già era destinato a durare per le lunghe. Prevedo una notte lunga anche per te, quindi. Diciamo che con questa novità il Brasile non era un argomento all'ordine del giorno, credo che gioco forza lo diventerà. Saranno lì anche a lungo tutti i membri del CDA di Telecom. Grazie ad Antonella Olivieri, grazie a Fabio Cantadori per l'assistenza tecnica, Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, anch'io faccio il bis, torno domani con Cuore Denari alle 11 e Focus Economia alle 17. Buona serata a tutti.